vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 13 marzo, il sole in regione è sorto alle 6.25 e tramonterà alle 18.10. Venerdì ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Lillo Montalto Monella e Armando Mucchino. Tra le colture che possono garantire un buon reddito c'è anche quella del noce. Servono però accortezze che illustra il professor Raffaele Testolin nel servizio d'apertura di puntata. A seguire per la rubrica del bio una nota di Cristina Micheloni sulla situazione internazionale che spinge a riflessioni non sempre razionali sull'agricoltura che serve per i nostri mercati. Nella rubrica del vino tutte le ragioni per le quali in Italia è vietato l'arricchimento dei mosti con il saccarosio. Nello spazio che dedichiamo all'orticoltura, i consigli per scegliere i contenitori adatti per seminare e trapiantare le nostre piantine. E in quello della gastronomia, i segreti del Rumtopf, pressa alcolica per la conservazione della frutta. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante, più una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Continua il nostro percorso nella frutticoltura professionale sulle potenzialità del settore nella nostra regione. Il professor Raffaele Testolin oggi ci parla della coltivazione del noce, che presenta ottime opportunità nella nostra regione. Il noce è certamente una coltura da reddito, a patto di coltivarlo da professionisti. Si adatta bene a tutti i terreni, ma teme i ristagni idrici e quindi attenzione ai terreni pesanti con falde alte. Ne hanno pagato le spese molti agricoltori veneti che dopo pochi anni dall'impianto hanno visto morire una dopo l'altra le piante di noce. Il Friuli è ricco di noci, mica per niente il Carducci, in vacanza alle terme di Arta, cantava con nostalgia nel comune rustico «O noci della Carnia addio». Spinti da Cristiana Compagno, rettrice carnica dell'Università di Udine, abbiamo girato per tutto il Friuli alla ricerca di vecchie piante di noci. Ne abbiamo valutate oltre 200. Abbiamo trovato piante interessanti, ma purtroppo hanno tutte il difetto di produrre in punta e non sui rami laterali. Puntare su queste selezioni di noci autoctoni sarebbe una scelta d'affezione, ma non economica. Le varietà di noce moderne, selezionate dagli americani e dai francesi, producono anche sui getti laterali e la resa alla raccolta è più del doppio di qualsiasi varietà nazionale o locale. Partiamo allora dalle varietà. Sono una decina quelle che vanno per la maggiore, ma le migliori, a mio parere, sono Howard americana e Lara francese. Se volete aggiungete Chandler, sempre americana, e non sbagliate. È utile piantare più di una varietà per avere una buona impollinazione e quindi rese elevate. Lasciate perdere la noce di Sorrento, la bleggiana e le altre varietà nazionali. Non fareste reddito. E allora parliamo di impianto. Si usano sesti di impianto larghi, 7 metri tra le file per permettere il passaggio delle macchine e 4 metri sulla fila. Parliamo ai professionisti, ovviamente. Si possono mettere a dimora piante in vaso micropropagate di 6 mesi. Costano meno delle altre e crescono più velocemente. Piante più grandi non servono, non si guadagna tempo e si buttano via soldi. Passiamo allora adesso all'allevamento. Richiede un po' di attenzione. Si allevano le piante ad asse centrale in cui si sviluppano 6 branche a lunghezza decrescente dal basso verso l'alto. Una volta messo a dimora l'astone, questo viene cimato alla fine del primo anno a 1,80 m. Al secondo anno serve un piccolo accorgimento. Dove si devono formare le branche, la gemma principale viene eliminata con un coltellino a favore della gemma secondaria che dà un germoglio più aperto, un'astuzia che ho imparato da Eugenio Cozzolino, grande esperto di noci. Una volta realizzata la struttura della pianta, ci si limita ad eliminare i rami e le branche deboli e in deperimento. Il noce è coltura completamente meccanizzabile dalla potatura alla raccolta e anche questa è una notizia interessante per gli agricoltori che amano più guidare i trattori che lavorare di braccia. Parliamo allora anche di soldi. 4-5 tonnellate per ettaro, che vuol dire 40-50 quintali, in piena produzione, ma un brano coltivatore può arrivare a 8-10 tonnellate. A 5-6 euro al chilo per noci sgusciate parliamo di 20.000 euro ad ettaro lordi per i produttori meno bravi, una rendita che può salire fino a 40, 50, anche 60.000 euro per i più bravi se la stagione è buona. Concludiamo con il capitolo difesa. Non è banale. Molti ascoltatori avranno notato che le noci hanno spesso il verme. È un problema e se si vuole vendere le noci bisogna trattare contro l'insetto. Un paio di trattamenti a stagione sono sufficienti, ma bisogna farli al momento giusto. Il servizio fitosanitario dell'ERSA può venire incontro monitorando i voli primaverili dell'insetto e avvertendo sul sito web quando è il momento di trattare. Il noce ha anche altri parassiti e malattie. Da questo punto di vista sono fortunati quelli che hanno i terreni al di sopra dei 600 metri di altitudine, perché alcuni parassiti vivono solo in pianura, come dice il collega Pietro Zandigiacomo. Affidatevi in tutti i casi ad un consulente per i trattamenti. Saranno soldi ben spesi ed eviterete sorprese alla raccolta. Dimenticavo di dire, ma lo davo per scontato, se decidete di fare un impianto professionale di noci, cercate prima a chi venderle. Ci sono alcune realtà interessanti nel nord-est che operano bene. Anche per l'agricoltura sono tempi difficili nel panorama internazionale, mai così dilaniato da tensioni e contraddizioni, che però non possono farci dimenticare quali siano le vocazioni a cui tendere. Ce ne parla Cristina Micheloni. Dai giornali riecheggia la preoccupazione per gli aumenti del prezzo delle commodities e per l'incertezza negli approvvigionamenti. Le commodities sarebbero quelle materie prime di origine agricola che non hanno più la dignità per essere chiamate come tali e il cui valore di mercato è definito a livello globale e poco o nulla ha a che vedere con i loro costi di produzione. Esempi? Mais, soia, frumento, riso, girasole, che poi diventano cibo e alimento zootecnico, riconquistando una minima parte della dignità perduta. Talvolta divengono pure la base del Made in Italy o del tipico e tradizionale, ma questo non giova alla promozione, quindi meglio non dirlo. Le commodities agricole hanno la dispettosa caratteristica di dipendere dalla stagione e si raccolgono una volta l'anno per emisfero. Il frumento e il girasole di cui si parla ora sono già stati raccolti la scorsa estate in Ucraina, in Russia, Romania, Pianura Padana, Codroipo, la Tisana, venduti dagli agricoltori a stoccatori e industrie e da questi poi immessi sul mercato globale nel momento e al prezzo più opportuno, con tutte le ordinarie speculazioni del caso. Stesso meccanismo per il mais, non quello da polenta che è poca cosa, ma quello da mangime, che deve essere a basso prezzo, altrimenti gli allevamenti intensivi non stanno in piedi. Ora, 15 giorni di guerra, cosa terribile a prescindere, tra due rilevanti fornitori di commodities e pare che rischiamo la fame. Tanto da provare a rimettere in discussione il cammino appena intrapreso verso un minimo di agricoltura più efficiente e meno impattante, quella sostenuta dalla strategia europea Farm to Fork. Tanto per chiarezza, nel frattempo i problemi ambientali e climatici continuano a essere un'emergenza. Quindi, invece che usare la scusa dell'emergenza bellica in Ucraina per giustificare lo status quo in Italia e continuare a fare quello che si è sempre fatto negli ultimi 50 anni, sia in agricoltura che nell'agroindustria, possiamo prendere l'occasione e la tangibile evidenza della fragilità dei nostri sistemi alimentari e rivederli in chiave non solo più ecologica, ma anche un po' più autonoma, nel senso di meno dipendente dai mercati globali e dalle loro connaturate incertezze? Esempio concreto, ha senso invitare gli agricoltori friulani a seminare più mais? Potrebbe anche averlo, se fosse messo in rotazione con 3-4 colture, in modo da assicurare la prevenzione delle micotossine e altre problematiche, fosse trasseminato con l'oietto e trifoglio, o seguito da un bel sovescio di crucifere, in modo da evitare il problema dei nitrati, l'uso dei diserbanti e risparmiare pure sui costosi concimi azotati, russi o nordafricani che siano, fosse a ciclo non troppo lungo, fosse seminato su sodo. Però questo non è il mais a basso costo e superficie concentrata che la mangimistica chiede. Ergo, e facciamolo un po' di mais, ma per il mercato locale e magari per uso umano. Facciamolo bio e proseguiamo nella transizione ecologica saggia e concreta, senza porgere orecchio e men che meno dare retta a chi ha la convenienza a, come cantavano gli U2, continuare a running to stand still. Perché in Italia non si possono arricchire i mosti col saccarosio? È il titolo dell'intervento di oggi del professor Roberto Zironi per la rubrica del vino. Il consumatore spesso ci chiede Ma perché in Francia è possibile l'arricchimento dei mosti con saccarosio, mentre invece in Italia no? La risposta ha delle motivazioni di tipo tecnico e anche di tipo storico. Nei paesi mediterranei, nelle zone più assolate, non ci sono problemi ad ottenere uve con alta concentrazione zuccherina. In Italia, nelle zone del nord, dove spesso queste condizioni non si realizzano, era consuetudine tagliare i vini con vini provenienti dalle zone del sud. Secondo un'interpretazione, anche la stessa terminologia Taiyut utilizzata in Friuli fa riferimento proprio a questa pratica che gli osti applicavano direttamente nel bicchiere dell'avventore, metà di vino locale e metà di vino fortificante proveniente dal sud. Negli stati invece dell'Europa continentale era tradizione l'utilizzazione del saccarosio per correggere le basse concentrazioni zuccherine che spesso si realizzavano nei mosti prodotti in quei territori. Con l'avvento, diciamo, dell'Unione Europea si è cercato di uniformare il regime degli arricchimenti nell'Unione Europea stessa. Il problema che qual è stato? Che in tutti i paesi di interesse viticolo ed enologico la base elettorale è molto importante e quindi andare a contrastare delle tradizioni diverse nei diversi paesi voleva dire scontentare qualcuno. Per cui si è deciso di lasciare ai diversi stati membri il regime precedente alla loro entrata nell'Unione Europea. Da un punto di vista tecnico, oggi abbiamo il mosto concentrato rettificato, che quindi non è molto diverso in termini di prestazioni rispetto al saccarosio. Costa però 2/3 in più, per cui avrebbero dei differenziali troppo importanti nei costi di produzione, favorendo chiaramente i paesi che utilizzano saccarosio. Quindi la Comunità Europea ha deciso di dare, fino a decine d'anni fa, un regime di aiuti per chi era obbligato, da un punto di vista legislativo, a utilizzare il mosto concentrato rettificato, sperando di ottenere nel frattempo anche un'informazione a livello dei diversi paesi sulle pratiche di arricchimento, un'uniformità tecnica più che politica. Questo non è avvenuto, oggi siamo ancora nella condizione precedente e con un paradosso. Se ci pensate, spesso in primavera, allo spuntare delle prime foglie, c'è qualcuno che comincia ad esaltare le caratteristiche qualitative dell'annata, salvo poi nel mese di luglio chiedere alle regioni di dichiarare lo stato di calamità, nel senso tecnico, diciamo, di scarse caratteristiche potenziali delle uve per poter avere autorizzata la pratica dell'arricchimento. Per fare le cose a regola d'arte è importante anche saper scegliere i contenitori giusti dove seminare o trapiantare le vostre piantine da orto. Ci dice tutto Sara Bosco. Proseguendo nell'elenco dei vari passaggi da affrontare nella predisposizione di un orto e quindi sulle scelte da eseguire per renderlo il più produttivo, è da affrontare anche il tema della scelta dei contenitori. Questi sono molto importanti per chi decide di effettuare l'orto in terrazzo, ma anche per chi decide di eseguire la semina delle plantule prima in un luogo protetto e eseguendo poi il trapianto in pieno campo. I contenitori hanno una diversa dimensione in funzione delle colture che andranno ad ospitare e in che fase vegetativa si trovano. Nel caso della semina di piantine per il successivo trapianto, spesso si utilizzano dei contenitori in plastica che avranno degli alveoli più grandi per piante come pomodoro o carciofo, mentre per colture come lattughe e radicchi è preferibile siano più piccoli. Per l'orto in terrazzo invece le dimensioni saranno maggiori perché devono ospitare le piantine durante tutta la fase di crescita e successiva produzione. Ecco che entra in gioco anche un altro importante fattore, caratteristica da considerare, che è la profondità di questi contenitori. Per colture con cicli brevi e che non approfondiscono molto l'apparato radicale, come le lattughe oppure il prezzemolo, la profondità può anche essere solo di una decina di centimetri. Al contrario, delle colture come pomodoro o zucchina avranno bisogno di una maggiore profondità, anche di circa 50 centimetri. I contenitori possono essere costituiti da diversi materiali, tra quelli più comuni troviamo la plastica, la terracotta, il legno, ma ci sono anche nuovi materiali innovativi e riciclabili come il geotessuto e le borse biodegradabili. Questa scelta sarà guidata sia dallo spazio disponibile che dalla spesa che si vuole effettuare. I contenitori perciò devono assicurare un buon drenaggio per le colture e devono essere leggeri e maneggevoli e delle giuste dimensioni. Inoltre è importante che abbiano anche un buon isolamento termico che permetta di mantenere la temperatura all'interno del substrato il più omogenea possibile in modo da non danneggiare le radici. Avete mai sentito parlare del Rumtopf? Si tratta di una succulenta prassi per conservare la frutta. Di questo si occupa oggi Roberto Zottar. È tempo di incominciare a preparare il Rumtopf. Il professor Raffaele Testolin ci dispensa sempre preziosi consigli per coltivare ogni tipo di frutta ed oggi vorrei riallacciarmi ad un delizioso metodo per conservarla, il Rumtopf. Secondo questa antica tradizione, diversi frutti, mese dopo mese, vengono posti in un recipiente in gres, il topf appunto, con zucchero e rum ad alta gradazione. Questa usanza è molto diffusa in Germania e in Austria, è presente in qualche famiglia del Tarvisiano e nelle vallate trentine. In Valsugana c'è perfino una confraternita del Rumtopf. Pellegrino Artusi nel 1891 riportava la ricetta chiamandola frutta in guazzo, usando però acquavita al posto del rum. Per realizzare il Rumtopf si usa un panciuto vaso di terracotta smaltata, ma va bene anche un vaso di vetro da 4 o 5 litri a bocca larga, basta conservarlo al buio. La ricetta prevede l'utilizzo di un rum al 55% di alcol, che però non è facilmente reperibile in Italia. L'ideale sarebbe l'austriaco Stroh, prodotto a Klagenfurt sin dal 1832 e famoso in tutto l'impero austro-ungarico. Ma va bene anche un buon rum al 40-42%, al quale si aggiunge alcol puro nella proporzione di 3/4 di rum e 1/4 di alcol. Il procedimento è lungo ma semplice. Ogni mese si aggiunge nel vaso un frutto diverso fatto macerare prima per un'ora con metà del suo peso di zucchero e si copre di rum. È tradizione iniziare a primavera con le prime fragole e si prosegue non appena mature con ciliegie, pesche, albicocche, prugne, tutte denocciolate, lamponi, mirtilli, pere, uva, fichi e, volendo un pizzico di esotismo, ananas tagliato a cubetti e un bacello di vaniglia. L'importante è seguire la stagionalità, utilizzare frutta fresca matura e assolutamente perfetta, mantenerla coperta di rum e tenere il vaso ermeticamente chiuso al fresco. Il Rumtopf, dopo una lunga e lenta maturazione, è pronto per essere consumato nella prima domenica di Avvento. È ottimo accompagnato al gelato, a torte secche, ma anche da solo a fine pasto o riscaldato come ripieno delle crepe. Qualcuno lo gradisce come accompagnamento di un piatto di selvaggina. Lo stesso liquore si utilizza come digestivo o combinato con spumante diventa un cocktail seducente. La sua realizzazione è un gradevole impegno che dura da Pasqua a Natale, tanta pazienza per un risultato unico e un sapore antico. Il Rumtopf non è una semplice frutta sotto spirito, è il paradigma dell'attesa. Una delizia preparata con la lettezza di un tempo, durante lo scorrere dei mesi, in una modalità antica di conservazione della frutta. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato attivo con prezzi in forte rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 39,50 euro il quintale IVA esclusa, l'orzo peso specifico 62,65 tra 36 e 37 euro, il frumento tra 38,50 e 39,50 e la soia tra 67 e 67,50. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 17,60 euro e la soia di 17,50 il quintale. Passando ai bovini da macello si rileva ancora una lieve ripresa delle quotazioni con le vacche fine carriera di prima qualità che vengono pagate a peso morto tra 2,90 e 3,30 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda tra 2,20 e 2,90. Mercato stazionario invece nel settore dei vitelli da ristallo, con le quotazioni che accertano i Blubelga maschi quotati tra 6 e 6,50 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,40 e 4,80, i frisoni tra 1,60 e 1,90 e i bruni tra 1,50 e 1,70. Nel comparto suinicolo si evidenzia la ripresa del mercato dei lattonzoli di 30 kg, che vengono pagati franco partenza a 3,12 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello si quotano a 1,45 il chilo. Scambi attivi anche nel settore dei prodotti caseari, con quotazioni in aumento. Il montaggio di 90 giorni viene pagato tra 6,50 e 6,80 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,60 e 7,90, lo stagionato 12-15 mesi tra 8,20 e 8,60, con marchio di qualità tra 9,20 e 9,60. Miglioramento anche del prezzo del latte crudo di vacca franco stalla di origine Friuli Venezia Giulia, dove la commissione camerale di Pordenone Udine giovedì scorso lo ha quotato tra 45 e 41 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, nel settore degli avicunicoli si segnalano ancora scambi attivi con prezzi in salita. I polli a terra vengono pagati tra 1,74 e 1,76 euro il chilo IVA esclusa, le anatre tra 3,36 e 3,40, i tacchini maschi tra 2,20 e 2,22, le faraone tra 3,50 e 3,60 e le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 18,50 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo un'occhiata alla meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. La prima decade di marzo si è da poco conclusa ed ha ricalcato le caratteristiche dei precedenti mesi invernali, risultando molto secca e ben soleggiata. Frequentemente si è presentata la bora sulla costa, seppur quasi mai forte, ma più spesso da moderata sostenuta. Anche sui monti in quota ha soffiato spesso vento sostenuto e decisamente freddo da nord-est. In pianura frequenti sono state le gelate notturne e anche intense. Così la temperatura media decadale è stata in media 2,5 gradi sotto la norma. Condizioni quindi ancora da inverno pieno, con giornate però con tanto sole, dato che si è prossimi all'equinozio di primavera e le giornate sono lunghe tanto quanto le notti. Pur essendo fredda, la decade non è da record, poiché nel 2005 i primi 10 giorni di marzo furono addirittura 6 gradi più freddi della norma e con un primo marzo da record con una minima di 10 gradi sotto zero a Udine. Anche questi giorni d'inizio della seconda decade sono freddi, con temperature massime su pianura e costa non oltre 10 gradi. Ancora gelate in pianura e zero termico sotto i 1000 metri di quota. Passando alle previsioni per la settimana entrante, constatiamo come le correnti in quota saranno occidentali e quindi più miti e umide. Non arriveranno però perturbazioni significative, per cui dopo un lunedì con cielo poco nuvoloso, martedì e mercoledì la nuvolosità sarà più consistente, ma non tale da permettere precipitazioni. Le temperature saliranno di qualche grado, specie le minime. Lo zero termico mercoledì salirà temporaneamente oltre i 2500 metri di quota, per poi ridiscendere nella seconda parte della settimana verso i 1000 metri di quota circa, quando riprenderà a prevalere un flusso di correnti orientali più secche e fredde proveniente dai Balcani, specie intorno al giorno 20. In sostanza possiamo dire che la siccità continuerà e la primavera, intesa come temperature miti e prossime ai 20 gradi di giorno, è ancora ben lontana. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Un biel marzo al vien daur un biel avril, ovvero a un bel marzo segue un bel aprile. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montalto Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.